Wender e Fabio Alisei presentano. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. La musica nasce nei posti più impensati. Un campo di cotone, un bordello, una centrale dismessa, un garage. Come un figlio bastardo, un adulterio, uno stupro o un messia. Tra tutti i generi venuti al mondo, ne esiste uno nato in un magazzino, sputato fuori da rudimentali drum machine, diffuso da radio indipendenti, ballato da omosessuali e dandy, graffiato su supporti in vinile che accarezzano puntine e cassa e bassi e starnuti di fottuto jazz. Il crononauta atterra a Chicago, cammina fra container e bancali, sposta le cerate e scuote la polvere per riportare alla luce il warehouse, il capannone, dove tutto è iniziato, dove beat, soul ed elettronica hanno cominciato a scopare per generare la musica house. Anno dopo anno, solco dopo solco, battito dopo battito, ci abbandoniamo al flusso lisergico del più nobile dei generi dance. Dischi comprati in lire, in una raffica di scatti col flash. Mettetevi comodi, inizia Polaroid. Polaroid. Polaroid. Polaroid. Istantanee di storia della musica. ...1986, New York City. Una porta chiusa, voci sommesse provengono dall'interno. Fuori decine di persone attendono di entrare, per baciare una mano, per chiedere un favore. Chiedono di parlare con il padrino, l'uomo che ha guadagnato il rispetto, che muove i fili della notte nelle strade della Grande Mela. Ci vive abbastanza in famiglia? Sì, certo. Bravo, perché un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo. Vieni qua. Quell'uomo non è bianco, non porta un nome italiano e non governa una famiglia di pistole, alcolici e troie. Ma per tutti è comunque The Godfather, Frankie Knuckles, il padrino della musica house. E questo non è piombo, è amore. Your love. istantanee di storia della musica, oggi fa un viaggio nella storia della house music. Il popolo ebraico attraverso il deserto, le orde di barbari alle porte dell'impero, i minatori italiani nelle cave del Belgio, i pezzenti di terza classe stivati nella Mayflower. Guardano tutti avanti, con gli occhi pieni di futuro, verso una nuova speranza, verso la terra promessa. Per Joseph Lorenzo Jr. questo miraggio è l'Europa, il luogo dove lingue, razze, muri e tradizioni superano ogni divisione per unirsi nell'ascolto e nel ballo della sua nuova musica. La musica di Joe Smooth, il profeta di The Promised Land. Parliamo di house music solo su Radio 105. 1990. Ma senti quanto ansima questa zoccola! Sentila come gode come una cagnetta in calore! Ah, ma non sarà certo il marito a farla mugolare così! Sarà di certo qualche negrone drogato del quartiere. Magari si fa anche pagare per fare questi versi da scrofa. Ma prima o poi chiamo la polizia e la faccio arrestare. Non se ne può più. Tutte le sere la stessa storia. Arriva quest'ora e la puttana accende la sua musica di merda e comincia a scopare. Ogni sera uguale. Manco fosse un nastro registrato. Manco fosse Sean Christopher in French Kiss di Lil Louis. Della musica si ferma e torna tra poco solo su Radio 105. Su Radio 105 c'è Polaroid, istantanee di storia della musica. Polaroid, istantanee di storia della musica, oggi fa un viaggio nella storia della house music, solo su Radio 105. 1992, agosto. JD è sul balcone, fuma una canna, pensa alla vita e a tutto il dolore che l'umanità provoca a se stessa e al mondo. Suo padre nella stanza a fianco, chiacchiera di Soul, Led Zeppelin, Santana e beve con i suoi amici musicisti, come ogni sera. La musica arriva da sotto la porta e a JD scoppia la testa. Esce di casa, corre in studio, si fa un'altra canna con Greg, il suo batterista, e si mette a comporre. Suona come in trance. Ogni sera aggiusta, modifica, cancella, piange, performa, aggiunge. Per oltre 2 mesi perfeziona la sua traccia, svuotandola nel suo garage e nei locali di Froci di Amsterdam. Alla fine il suo pezzo è pronto. JD ha realizzato un sogno di plastica. 1995, quando aveva 11 anni, Kenneth incontrò James Brown. Era un bambino grassottello e imitava Chubby Checker, il mitico re del twist. James lo prese in simpatia e gli diede un nome buffo, C.C. Rogers, un nome che Kenneth si porterà dietro per tutta la vita. Anche in questo pomeriggio assolato, mentre entra in uno studio di registrazione piccolo e arrangiato, deve cantare una cosa per un gruppo di ragazzi italiani dal nome americano. Il loro nome è Gesto Funk, la loro traccia è Can We Leave. Cause here we go, it's a four-letter word. When it's heard to control your body to dance, so istantanee di storia della musica. Di storia della musica. Solo su Radio 105. Solo su Radio 105. Polaroid, istantanee di storia della musica, oggi fa un viaggio nella storia della house music. La mamma di Christoph si è flippata il cervello. Ha fatto arrivare dagli Stati Uniti una cassa piena di videocassette Gym Tonic, roba di quell'attrice americana, Jane Fonda, che fa l'aerobica in TV. E passa tutta la mattina a sudare come una vacca davanti allo schermo, pensando di diventare magra e figa come lei. One, two, three, four. One, two, three, four. Tutte le mattine. Che due coglioni. Quel conteggio non gli esce dalla testa. Lo mangia come un tarlo, lo perseguita. Christoph deve fare qualcosa. Christoph deve fare qualcosa. Forse il suo amico col casco, Thomas Bangalter, può dargli una mano. Forse quell'ossessione può diventare qualcosa. Uno spunto, una scintilla per smettere di essere Christoph e diventare qualcun altro. Tipo Bob Sinclair. Ottobre 2001. Un terremoto ha sconvolto il mondo della musica e del diritto d'autore. È un piccolo software gratuito messo online da un ragazzino del Massachusetts. Si chiama Napster e permette di condividere la propria musica in rete trasformandola in un file MP3. Per musicisti, autori e produttori è l'inizio del collasso. Ma come sempre accade, dietro ogni tragedia si nasconde un'opportunità. Così, quel giorno, un sognatore, con una mela morsicata in mano, presenta al mondo un oggetto venuto dal futuro. Un lettore di brani digitali, piccolo come un Walkman, grande come un computer, l'iPod. E dentro questo oggetto misterioso, laccato di bianco come un elettrodomestico, suona una canzone di un italiano, la prima mai riprodotta con questo device. Spiller, Groovejet. erotica nasce nei posti più impensati. Un campo di cotone, un bordello, una centrale di smessa, un garage, un computer. Ma la sorgente che la genera è sempre dentro di noi, nella nostra storia, nella nostra fantasia, nel nostro bisogno di esprimerci. Dal vinile all'iPod, dall'orchestra sinfonica a Spotify, la musica cambia supporto ma non significato. Accomuna ed unisce popoli e tempi. E noi la raccontiamo in piccoli scatti di Polaroid. Alla prossima puntata. Polaroid è una produzione Zodi 105. Ideato da Wender e Fabio Lisei. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel, registrato da Anthony. Per altre repliche e altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 Archivio Bot.